Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Vita di strada crudele, tiratela di meno. Scanno sopra un Mercedes, raro che tocco il freno. Fanculo tu G-Lemon, scolo tutto il Jack Daniel. Ho visto la morte più volte e sono ancora intero. Fai davvero, ho visto cose non immagini nemmeno. Non le dico che meglio, la gente non comprende la sofferenza che ho passato io da minorenne. Nah, Zizu che impenna, vendo droga in inverno, così poi l'estate me la posso fare sereno. No, non sono sereno, se in tasca non ho euro. I problemi sono pieno, di pazienza sempre meno. Non fare il boss e a frego, c'ho il dossier piano, tu parla di meno. C'ho la bocca larga, col conto a zero. Io non parlo tanto, col conto pieno. Inizio al Beccaria. Inizio al Beccaria, finisco a San Vittore. Da un cesso di un acello ho scritto la prima canzone. Da un cesso di un acello ho fatto il mio primo milione. Da un cesso di un acello non so per quale ragione. Mi dicono ragiona, no, senza avere ragione, sì. Grazie a Dio solamente la mia religione, no, che non permette di sparare in testa ogni coglione. Matricolato, chiamato col nome e cognome. Sotto le scale, caffettiere e lame. Due coltellate, l'infame, nessuno vede un bar. Nessuno sente e parla, nessuno parla e sente. Noi vediamo sempre tutto ma non vede l'assistente. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore. Inizio al Beccaria, finisco al San Vittore.